Tanto in questo momento è in corso un'assemblea molto partecipata in cui sono presenti i parlamentari in Veneto, diciamo letti poi nella circoscrizione di Venezia, e stiamo cercando di metterli un po' alle strette rispetto a questa cosa del Salva Venezia, ovviamente la solita sfilata, però insomma la gente è molto arrabbiata, per cui le domande e le questioni poste sono molto stringenti. Quello che viene fuori è che probabilmente la partita alla Camera non sarà favorevole, nel senso che non è ancora stato presentato l'emendamento, quindi si rinvia tutto al Senato, e quindi l'idea nostra è di andare avanti almeno fino a quando non se ne discuterà appunto alla Camera o al Senato. Domani nel pomeriggio dalle 5 faremo un'iniziativa, una sorta di sit-in con dei flash mob proprio intorno alla sede centrale di Caffassetti, e quindi queste sono le iniziative immediate. Comunque l'occupazione sta andando avanti e si sta anche rafforzando, perché mano a mano che appunto le iniziative stanno andando avanti c'è sempre più partecipazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Senti, abbiamo letto questa mattina, a parte il vostro comunicato, e abbiamo un po' approfondito la vicenda. Quello che ti volevamo chiedere è un po' di farci capire quello che riportavano anche i giornali. Hanno provato, insomma, in questi giorni a provare in qualche modo a mettere, insomma, a dissuadere la vostra iniziativa lì al comune, cercando, insomma, quasi di normativizzare, insomma, chi poteva entrare e chi no, come se appunto un'iniziativa di protesta potesse essere messa in dei confini particolari. Ci sono stati due episodi: uno il consiglio comunale l'altro giorno, che il consiglio comunale, per modo di dire, nel senso che la città è commissariata, quindi il consiglio comunale c'è il commissario e alcuni dirigenti, dove ci hanno chiesto di lasciare proprio l'aula del consiglio, e ieri sera quando appunto sono venuti a trovarci alcuni cittadini, perché ricordiamo che l'assemblea permanente è di tutta la città, non solo dei lavoratori, i vigili urbani però in questo caso hanno cercato di impedire il passaggio. Noi ieri abbiamo scelto di non alzare il tono dello scontro, però è chiaro che poi dopo se ne è discusso di questa cosa, e non c'è ragione che questo possa avvenire, perché l'occupazione tra l'altro è molto pacifica, molto tranquilla, e in ogni caso siamo noi a decidere chi deve entrare e chi non deve entrare. Insomma, l'abbiamo soprannominata, per l'appunto, ma ci crediamo veramente, casa del popolo liberato, e il comune è la casa di tutti i cittadini, quindi non esiste che ci si impedisca di esercitare il nostro diritto di democrazia. Senti, come ha reagito la città, il commissariamento del comune in generale, a quello che sta avvenendo se passerà, insomma, Salva Venezia? Ma devo dire che noi abbiamo scontato un po' all'inizio dell'avvertenza, che ripeto va avanti da ormai da più di un anno, un po' di dissidenza a parte della cittadinanza, perché vabbè, c'è sempre il solito luogo comune che i dipendenti pubblici non fanno niente, eccetera eccetera. Allora, per carità, noi non difendiamo lo status quo, ci sono molte cose da rivedere, però in realtà piano piano siamo riusciti a far capire che il problema non è solo il salario dei lavoratori e delle lavoratrici, ma sono anche tutti i servizi, sono le tariffe, sono le tasse che i cittadini andranno a pagare se il comune va in fallimento. Su questo, diciamo, negli ultimi giorni, con le ultime iniziative, siamo riusciti a fare più breccia, e infatti si vede in città, abbiamo un buon riscontro. Al momento c'è ancora tanto tanto lavoro di informazione da fare, perché molte persone non sono consapevoli del rischio che stiamo correndo, questo è certo. Sì, un'ultima cosa su cui volevo soffermarmi è il fatto che qui a Roma abbiamo già passato in qualche modo quello che sta avvenendo a Venezia, e pensiamo anche che toccherà ad altre città. Si è parlato anche di Torino, è stato applicato il Salva Roma, ma le conseguenze, insomma, del mettere i comuni in default e poi, insomma, commissariarli e poi ancora mettere insomma queste toppe attraverso il salvadome poi comporta di fatto dei provvedimenti molto importanti nelle città che sono vergognosi, tra cui quello che sta avvenendo in questo momento in questa città è la svendita del patrimonio pubblico e la privatizzazione dei servizi pubblici già carenti, tutta una serie di provvedimenti che poi vanno a peggiorare insomma la situazione dei cittadini nelle città. Probabilmente avverrà, o pensate insomma che avverrà anche per quanto riguarda Venezia, ci sono già dei segnali da questo punto di vista? Sì, sì, certamente l'obiettivo è questo, insomma, un po', cioè quello che stanno facendo a Venezia, come stanno facendo in altre città, è esattamente quello che dici, cioè di fatto ancora i settori dove in qualche maniera le multinazionali e comunque i settori privati possono lucrare sono proprio i servizi pubblici e il patrimonio pubblico, quindi se in una situazione appunto di commissariamento dove non c'è un confronto democratico reale, poter privatizzare e svendere gli immobili pubblici senza avere tanto da discutere è sicuramente ottimale per il governo. Il dato vero è che l'applicazione del patto di stabilità e di questi parametri molto, molto stringenti sta portando esattamente a questo tipo di situazione, ma è un obiettivo politico molto, molto chiaro, per cui la partita va ben al di là appunto delle rivendicazioni dei lavoratori. In gioco c'è proprio la privatizzazione dei servizi pubblici e la svendita degli immobili, dove appunto c'è ancora un bel malloppo da saccheggiare. Questo è sicuramente un esperimento e probabilmente anche una sperimentazione vera e propria che si sta facendo, ma sulla quale potrebbe tutto il paese domani andare a cocciare. Cioè stiamo andando verso quello che è il modello greco, insomma, per cui adesso al di là delle ultime elezioni, ma la situazione è quella, e chiaramente per portare avanti questo tipo di politiche che sono da massacro sociale bisogna stringere i cordoni e imporre le cose. Qui ci stiamo riuscendo molto bene, però insomma la nostra risposta della città sta anche dicendo che non sono tutti con la testa piegata, che c'è anche chi vuole resistere, vuole invertire la rotta. Io credo che tutti insieme possiamo farcela. Va bene, allora noi vi mandiamo un grosso in bocca al lupo e ci andremo a sentire sicuramente nei prossimi giorni per aggiornare la città di Roma rispetto a quello che avviene a Venezia. Grazie ancora per il tuo contributo. Grazie a voi, un saluto a tutti quanti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.